Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. La gioia dei campioni, la rabbia dei campioni, l'orgoglio dei campioni, ma anche quel sentimento di malinconia che attraversa gli occhi di molti campioni quando non raggiungono il loro obiettivo, quando magari arriva il momento di appendere le scarpette o il volante o i guantoni o la bicicletta al fatidico chiodo. Beh, oggi lo avete capito, Olimpia, puntata davvero particolare. Iniziamo il nuovo anno, il 2017, provando a leggere nei fondi del caffè dello sport che sarà, ma soprattutto ripercorrendo l'anno che è stato, perché ci ha regalato davvero tanti momenti particolari dal punto di vista sportivo. E proviamo a entrare nella mente dei campioni, perché entrare nella loro mente è anche, e lo sapete bene, scavare nel loro cuore. E allora lo facciamo con un ospite d'eccezione che è anche e soprattutto un amico mio personale e di Radio 24 e di Olimpia, Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano. Benvenuto Stefano a Olimpia, la città dello sport. Grazie Dario e grazie per l'invito. Allora, Stefano è tante cose, proprio perché unisce tante competenze in una figura, direi anche nuova, che sta portando avanti nel mondo dello sport, tra la preparazione atletica pura e non semplice, complessa, perché è davvero difficile tenere a regime certe macchine di questi campioni, e anche invece la preparazione psicologica o mentale, ecco, che è forse il termine più completo, perché sappiamo bene quale sia l'interconnessione tra cuore e testa. Beh, Stefano, vorrei partire con te subito dal campione per eccellenza di questo 2016, soprattutto per come ha vissuto la conquista del suo titolo, no? Nico Rosberg arriva alla conquista del titolo di Formula 1, così come era successo al padre Keke, di cui io personalmente ero grandissimo tifoso. E poi subito dopo passano pochi giorni, forse appena qualche ora, e annuncia il ritiro clamoroso. Ecco, una scelta davvero sorprendente, però se si guarda nella mente di quel campione forse le motivazioni si riescono a trovare. Ecco, secondo te qual è stata la principale di queste motivazioni che ha spinto Nico ad una scelta così clamorosa? Beh, lui sicuramente è una persona intelligente, l'abbiamo visto e sentito anche in tante interviste, è una persona che parla molte lingue perfettamente, quindi è una persona sostanzialmente equilibrata, ha un grosso carico alle spalle che è un confronto con un padre comunque vincente, cosa che sappiamo benissimo essere talvolta appunto più un peso che un piacere. E ognuno di noi in qualche modo fin dalla nascita ha una sorta di missione. C'è chi la comprende, la capisce molto bene fin da subito, e questo appartiene soprattutto ai grandi atleti, i quali fin da piccoli o vogliono sempre andare sulla macchinina e poi sui go-kart, o quelli che fin da piccoli la prima parola che dicono anziché mamma è palla e vogliono sempre solo vedere il pallone. E vedi già che qui la componente testa fa la differenza, perché poi a livello di abilità tecniche tutti noi abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci in determinati sport dicendo beh, anch'io l'avrei potuto fare perché le mie caratteristiche, parlo per me per esempio, a livello di calcio credo che fisicamente, tecnicamente avrei potuto sicuramente arrivare a livello professionistico, ma quello che mi è mancato, perché non ce l'avevo nelle corde, era la forza mentale. Più che forza mentale in termini di capacità di resilienza, che poi vedremo magari di che cosa si tratti per coloro i quali non ne hanno mai avuto chiarezza in merito, è proprio un discorso di sapere già quello che si vuole. Io penso che Rosberg sicuramente è un atleta che, perché io parlo di questi piloti come atleti, sappiamo il loro sforzo fisico e o chiaramente mentale che è enorme. Ci sono delle pressioni, delle forze che obbligano queste persone, questi uomini ad allenamenti veramente incredibili. Li ho visti e devo dire che sono ammirevoli questi piloti. Però lui già sapeva quello che voleva fare ed è talmente grande, talmente elevato l'obiettivo che al momento del raggiungimento, nel suo caso probabilmente, c'è stato un vuoto. Una sorta di down, insomma, dopo aver raggiunto un picco, no? Sì, perché in questo caso c'è proprio un confronto con la radice, in questo caso paterna, e dire a me stesso devo dimostrare quantomeno, secondo la mia passione, quella che è l'intensità della mia emotività quando mi metto alla guida di una Formula 1, che sarò comunque in grado di ripetere quelli che sono stati i successi di, in questo caso appunto, del padre. Differente è quando invece non si hanno dei confronti alle spalle con parenti, dove c'è una sorta di sfida su se stesso principalmente. E in questo caso la sfida su se stesso e nei confronti di se stesso è di record in record, di coppa dopo coppa, di trofeo dopo trofeo. Ma lui sicuramente ha fatto questa scelta con estrema serenità. Io, avendo visto i suoi occhi nel momento in cui via internet ha espresso la sua decisione, proprio manifestato la decisione di lasciare il tutto, si evinceva proprio questa totale serenità, convinzione, leggerezza e soprattutto armonia nel dire tutto quello che poi ha espresso. Quanto invece può aver pesato la convivenza con una personalità forte e preponderante come quella di Lewis Hamilton? Cioè, alla fine su questa bilancia ha pesato più il confronto fortissimo col padre che campione, o anche il logorio dato da una convivenza sicuramente con un compagno assolutamente grandioso al volante, ma anche ingombrante come personalità? Beh, lui stesso l'ha ammesso, ha detto che le ultime settimane sono state le più dure di tutta la sua carriera, di tutta la sua vita sportiva, e non solo, perché questo poi si è riversato anche nella sua vita privata. Quindi il confronto con Hamilton sicuramente è stato importante, stressante, anche se noi sappiamo che poi siamo nati per lo stress, quindi poi ne parleremo magari. Quindi quello non è un problema. Il problema è quando arriviamo a non avere più obiettivi. A quel punto lo stress non lo tolleriamo più. Per cui io direi che il confronto con Hamilton sicuramente è stato, da un certo punto di vista, stimolante, e soprattutto è stato uno degli elementi che gli ha permesso di vincere il mondiale. Dopodiché, una volta raggiunto, realizzato l'obiettivo, non avendo in quel momento ulteriori target da raggiungere, ha percepito l'eccessivo carico di confronto con questo personaggio senz'altro grandissimo dal punto di vista della capacità di pilotare queste macchine come Hamilton, però sicuramente molto molto eccentrico ed egocentrico, cosa che è difficile da tollerare, soprattutto in un ambiente dove le emozioni, le richieste emozionali, emotive sono sempre al massimo, 7 giorni su 7, spostamenti. Ricordiamoci che questi piloti comunque vivono gran parte fanno il giro del mondo, insomma, solo in aereo. Sì, vivono gran parte del loro anno tra fusi orari, spesso sicuramente sono seguiti anche da cuochi e comunque da esperti di nutrizione, però sono sicuramente sottoposti a stress fisici, mentali, fisiologici, e quindi quando si evince questa soddisfazione da parte di Rosberg di lasciare tutto con serenità, è un sintomo proprio della leggerezza della decisione. In questo caso può essere anche che lui torni, perché generalmente poi vengono a mancare quegli stimoli classici da adrenalina che tutti noi sappiamo e che ci permettono di in qualche modo di rinnovarci. Senza questi stimoli generalmente tendiamo a non evolvere in modo intenso come quello che può essere l'intensità della vita stessa di un pilota. Quindi io penso che ci potrà anche essere questa possibilità, che si potrà anche realizzare questo ritorno, però per il momento lui ha sentito, perché questo è il verbo che lui ha utilizzato, ho sentito che è stato per me questo il momento, la riflessione e la decisione più giusta. Quindi c'è un dialogo profondo con se stessi e che porta poi a far emergere il desiderio, la volontà. Ecco, senti, uno che da questa decisione si è ritrovato nuovamente al volante è Felipe Massa, no? Felipe Massa che chiude a l'ultimo Gran Premio con tanto di lacrime e a lui un ritiro che chiudeva in modo glorioso la sua straordinaria carriera, e invece adesso, in seguito alla carambola e al risico innescato dall'addio di Rosberg, torna al volante della Williams che aveva appena lasciato, uno dei ritiri più brevi della storia dello sport. Ma dal punto di vista mentale ti chiedo, è così scontato, così immediato che pure un campione atleta come il brasiliano possa ritrovarsi già subito a suo agio a quel volante? Perché io immagino che la sua testa fosse già da tutt'altra parte, no? Beh, è un pilota di grandissima esperienza, perché ci ricordiamo tutti che insomma lui è quello che ha pilotato più volte la Ferrari dopo Schumacher, no? Questa sarebbe in teoria la 15ª stagione in Formula 1. Quindi è un pilota che ha ponderato a lungo la sua decisione. Come tu dicevi e mi chiedevi, sicuramente non sarà facile il ritorno, perché abbiamo tutti in mente quelle immagini molto commoventi del Gran Premio di San Paolo, questo saluto da parte di tutti i team che l'hanno in qualche modo onorato rispetto a questa carriera enorme. Questo sicuramente è uno di quei punti abbastanza critici. Quando noi raccogliamo un bagaglio di emozioni così elevato, così intenso, perché poi lui dà l'abbraccio di tutti i team, è andato verso nell'abbraccio della famiglia, c'è stata sicuramente un'esplosione emozionale incredibile. Questa è un po' la cartina di tornasole della grandezza di massa. Lui è sempre stato un po' sottovalutato, forse. Qualcuno ha sempre detto che poteva essere un eterno secondo, in realtà però abbiamo visto che è un personaggio importantissimo della Formula 1, proprio per quello che abbiamo detto prima, per la sua incredibile carriera. E la cartina di tornasole è questa, cioè se è un grande, come io penso, riuscirà a ritrovare delle motivazioni attraverso un nuovo anno, che è sempre comunque un nuovo progetto. L'importante è prepararsi mentalmente a questo. Prepararsi mentalmente a questo vuol dire cercare di trovare nuovi stimoli all'interno, tra l'altro, di una stessa scuderia, e quindi nuove capacità di far sì che le energie mentali, fisiche, possano manifestarsi nel massimo della potenzialità. Mi trovi un po', come dire, dubbioso su questo ritorno. Devo essere sincero, ci ho pensato molto, e l'unica risposta che mi viene in questo momento da dare è: Massa avrà l'opportunità quest'anno di dimostrare che è un grande campione, nel momento in cui riuscirà a conseguire anche dei successi nell'arco del nuovo campionato, oppure se non riuscirà a perlomeno a piazzarsi qualche volta, non dico sul primo gradino di un Gran Premio, ma voglio dire almeno nei posizionamenti, quelli più elevati, credo che dimostrerà di aver subito troppo quell'impatto emozionale che a me personalmente aveva fatto scatenare alcune emozioni di un certo tipo. Mi era piaciuta moltissimo quella passerella che gli era stata dedicata. Eh sì, davvero davvero davvero bella. Corrono veloci non solo i piloti di Formula 1, ma anche il tempo qui a Olimpia, quando ripercorriamo le grandi pagine della storia dello sport. Staremo a vedere, interessante quello che ci hai detto, qualsiasi stress è gestibile se c'è un progetto, vale per gli sportivi ma non solo, mi viene da dire. Prendiamoci qualche istante di pausa, poi torniamo qui insieme a Olimpia a studiare, a realizzare, a raccontarvi le menti dei campioni insieme a Stefano Tiri. Olimpia, miti e verità dello sport. Ancora insieme oggi qui a Olimpia per un viaggio davvero particolare. Non viaggiamo solo nella memoria delle grandi pagine dello sport, ma viaggiamo nelle menti dei grandi campioni, con una guida d'eccezione, Stefano Tirelli, amico e soprattutto docente di tecniche sportive complementari all'Università Cattolica di Milano. Stefano, abbiamo parlato di Nico Rosberg, di Felipe Massa, dell'addio e del ritorno, ma ci sono dei campioni, e ce l'abbiamo tutte le domeniche sotto gli occhi, almeno quelli della pallavolo, che di lasciare il campo di gioco davvero non ne vogliono sentir parlare. Faccio riferimento all'immenso Samuele Papi, campionissimo della nostra pallavolo, ultra quarantenne, ancora protagonista del nostro campionato, a Paola Paggi che fa lo stesso nell'ambito del campionato femminile, a quel Giorgio Di Centa, ad esempio, che a 44 anni l'anno scorso aveva lasciato dopo una carriera straordinaria con tanto di ori olimpici nello sci di fondo. Ebbene, quest'anno lo ritroviamo protagonista ancora una volta sugli sci stretti, perché di meglio davvero non si trova. Senti, ma questa longevità sportiva dove allinea, dove attecchisce nella mente di questi campioni? Come si fa? Qual è il segreto? Ci sono senz'altro delle componenti che sono dapprima di carattere genetico, no? La forza fisica, quello che ci viene dato da cosiddetta madre natura, in realtà da tutto quello che è il pacchetto ereditario dei nostri genitori e dei nostri nonni e dei nostri avi, perché noi siamo la risultante delle difficoltà e degli stress di tutta la nostra evoluzione. C'è una forza mentale, un concetto anche di positività, di armonia. Per esempio, parlavi di Giorgio Di Centa, mi viene da pensare a questo straordinario atleta che aveva un padre maestro di sci, che ha tuttora 90 anni, da piccolo soffriva di asma, lo stesso Di Centa, e però lui è sempre cresciuto, così come lui ha espresso molte volte nelle interviste, in un ambiente sempre molto positivo. Questo senz'altro ha contribuito per lui a far fronte a quelle che sono le difficoltà, soprattutto anche di confronto con una sorella così ingombrante, no? Come quella di Emanuela, perché lui è sempre stato considerato dapprima il fratello della Di Centa. Poi dopo 27 anni, diciamo, di sacrifici, allenamenti eccetera, è riuscito a vincere un'Olimpiade, quindi ha soverchiato quella che era la visione sesta di Giorgio Di Centa. Quindi noi abbiamo anche per quanto riguarda Samuele Papi, questo straordinario, incredibile atleta, 43enne, 27 stagioni di massimo campionato, più di 8500 punti. Qui abbiamo, io credo, un minimo comune denominatore che si chiama proprio capacità di resilienza. È quello che tutti noi abbiamo, chi più chi meno, ma è la capacità di gestire lo stress. Spesso si pensa che lo stress sia da eliminare nella nostra vita, questo togliamocelo purtroppo dalla testa, perché non è proprio possibile. Noi viviamo, quindi mettiamoci di stress. Una pietra sopra, sì. E anzi facciamocelo amico. No, se ci pensiamo continuiamo ad evolvere e diventare sempre più forti, perché abbiamo sempre dovuto, nell'arco delle ere e diciamo proprio della trasformazione evolutiva dell'essere umano in questo caso, far fronte alle difficoltà. Quindi in questo senso, tanto più sono le difficoltà e tanto più è la capacità di porre di fronte ad esse delle reazioni costruttive, quanto più il campione viene fuori. Ed è chiaro che questo, io penso, sia proprio la qualità in più che determina per Giorgio Di Centa, per Samuele Papi e per tutte le persone atletiche di cui tu hai parlato, che faccia la differenza. In più c'è un'altra cosa che sicuramente anima la nostra vita, che è la passione. Quando questa passione e l'entusiasmo, perché proprio dal punto di vista etimologico entusiasmo vuol dire estrapolare il divino che c'è in me, in qualche modo vuol dire non ci sto dentro, cioè non posso contenerla, questa energia divina, e l'entusiasmo è quella fiamma che l'atleta ha più di altri e che fa diventare questo atleta il campione. Straordinario il mix che stai delineando, no? Lo stress che diventa carburante qualora viene inserito in un progetto, e ad alimentarlo ancora questo progetto l'entusiasmo, la passione, che non è una parola vuota ma è quasi una medicina, mi viene da dire, quasi il più sano dei doping, accostando veramente sacro e profano del mondo dello sport. Senti, un'altra campionessa che ci fa sempre parlare tantissimo di lei è Federica Pellegrini. Il 2016 è stato un anno eccellente, sotto tutti i punti di vista, tranne per quella finale dei 200 stile a Rio de Janeiro, in cui Federica è rimasta ai piedi del podio. Ecco, l'ultimo successo al mondiale in vasca corta, su quella distanza, quell'oro, l'unico oro che le mancava in carriera, ci fa immaginare una Federica che è stata rapidissima nel elaborare quel lutto sportivo, chiaramente, e riprogrammarsi con nuovi obiettivi, no? Infatti lei è proprio l'esempio di quanto si diceva prima. La sua depressione post delusione Rio de Janeiro, che l'ha portata a pensare realmente al ritiro, a prendersi un cagnolino, a stare in casa, come lei stessa ha più volte detto, in realtà quel tipo di atteggiamento depressivo è stato vinto, è stato battuto dall'entusiasmo e la passione che ancora lei ha, e che si manifesta nelle sue interviste, nel suo modo di essere. È sicuramente una persona tanto interessante dal punto di vista sportivo quanto complicata, probabilmente dal punto di vista relazionale, per esempio con gli allenatori. Abbiamo visto un Andri Vieni, no, di allenatori, nella sua carriera, che ha sempre caratterizzato un rapporto sicuramente positivo ma altrettanto complesso con i coach. E quindi è proprio il segreto di Federica Pellegrini, al di là della sua capacità di far fronte al lavoro, al sacrificio, alla resistenza, alle fatiche, proprio classico dei campioni, è questa fiamma che ancora non si è spenta. E quell'entusiasmo di cui si parlava prima, o ce l'hai o non ce l'hai, non lo puoi ricreare. Lo puoi eventualmente assopire nel momento in cui hai delle ombre che vanno ad offuscare quella luce proprio del cuore che noi abbiamo, ma non appena riesci a rifocalizzarti su quella che è l'illuminazione generale del tuo essere, del tuo riscoprirti e di ritrovare il tuo obiettivo di vita, bene, allora quella luce va a togliere qualsiasi ombra. E lei è un personaggio che farà parlare ancora molto di sé, proprio per questa sua imprevedibilità e per questo suo fuoco sacro, che è proprio il fuoco di Olimpia, mi par di capire, tant'è che già insomma ci ha fatto capire che probabilmente sarà in acqua almeno fino a Tokyo 2020. L'odore del cloro veramente è stimolo straordinario per Federica Pellegrini. Un altro che col cloro ha avuto parecchio a che fare, e ci avviamo rapidamente alla conclusione, ma ti chiedo proprio due battute sui più grandi di sempre, è Michael Phelps, che è protagonista anche a Rio 2016 e che sembra aver definitivamente detto stop con il nuoto. È proprio così secondo te? E come ti immagini un Phelps lontano dalle piscine? Adesso sì, ha la maturità per essere focalizzato su un nuovo progetto? Sì, è una persona sicuramente coerente. Lui ha sempre seguito anche nell'ambito della sua vita privata quelle che erano le sue intenzioni, i suoi obiettivi, almeno per quanto io sappia di lui. È una persona anche molto molto interessata a culture generali, quindi una persona sicuramente profonda. Ricordiamo per esempio questi segni sulla schiena, no? Classici su Phelps, piuttosto che sulla nazionale, no? Nuotatori, i classici segni della coppettazione, medicina cinese, che altro non sono che la stimolazione di alcuni punti che muovono maggiormente, per così dire, il flusso sanguigno, e quindi una maggior azione del microcircolo, quindi una maggiore irrorazione muscolare, maggior ossigenazione. Quindi quando persone di questo tipo, dopo attente analisi e riflessioni, e qui ci riportiamo per chiudere all'inizio con Rosberg, riescono ad arrivare ad un'analisi serena pensando al ritiro, credo che lo facciano con estrema serenità, e da questo punto di vista non mi immagino un suo ritorno. Eh sì, sono campioni che hanno scelto un altro progetto forse ancora più importante, no? La famiglia, anche se poi quell'adrenalina sportiva, quei trionfi e quelle poche sconfitte rimarranno inevitabilmente nel loro vissuto. Un minuto per il più grande di sempre, Usain Bolt. Siamo di fronte a quello che potrebbe essere il suo ultimo anno, perché ha detto che non ci sarà un'altra Olimpiade nella sua storia. Ma tu davvero ti immagini un Bolt in pantofole che può far l'allenatore di qualche giovane promessa? Io non so, Bolt lo immagino così, eterno giovane, sempre con l'effigie della sua saetta. Devo dire che in questo caso mi devo un po' rifare a quelle che purtroppo sono le leggi dell'economia dello sport. Credo che qui decideranno più gli sponsor rispetto a Bolt. C'hai ragione, pure te. Sì, in effetti, diciamo, sulla parola fine della sua storia, sicuramente il peso specifico che Usain Bolt ha per l'atletica mondiale, per lo sport mondiale, è sicuramente verrà messo su una bilancia immenso, dei tanti piatti. È illimitato, piatti. E quindi anche il peso degli sponsor che stanno intorno a lui farà la differenza nella sua decisione. staremo a vedere. Allora, come avete visto, abbiamo provato oggi con l'aiuto di Stefano Tirelli ad entrare nelle menti dei campioni. Stefano, io ti ringrazio per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport, ma ho idea che non è l'ultima volta che passi per queste vie. No, sarò contento di tornare perché ci sono tante persone come te, amiche, e poi questa radio è sicuramente straordinaria e mi fa sempre piacere tornare qua. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.